Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Obiettivo di fondo: più occupazione qualificata per i giovani e per le donne. La preoccupazione maggiore che emerge tra i cittadini è quella di assicurare un futuro ai figli, ai giovani. E questo l'impegno cui non possiamo sottrarci. Quanto danno l'Italia ha inconsapevolmente fatto ai propri figli, quelli che oggi non trovano lavoro? Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ci piace ricordare in questa prima tappa del 2012 sia le parole del messaggio di Capodanno del presidente Napolitano, sacrifici per il futuro dei giovani, ha chiesto al paese, sia quelle del premier Monti, che chiede un disarmo multilaterale delle corporazioni per dare più spazio ai giovani. Col cambio di anno anche Giovani Talenti si innova, non abbandoneremo ovviamente la denuncia dei gravissimi motivi che obbligano centinaia di migliaia di professionisti di talento under 40 e altamente qualificati a fuggire all'estero, in meritocrazia, cooptazione, gerontocrazia, solo per citarne alcuni, ma cominceremo anche gradualmente a lavorare per costruire ponti e indicare, se potremo, una strada per il ritorno. Un ritorno che implichi un volano per il cambiamento. Le prime novità già oggi con il lancio del manifesto dei giovani talenti che vi invitiamo a compilare online e via email, altre seguiranno nelle prossime settimane, ma per cominciare, come regalo di nuovo anno, una storia davvero eccezionale, protagonista un altro giovane che rende grande l'Italia all'estero. L'Italia, ti alleni per tutta la tua giovinezza, c'è la partita della tua vita, il tuo allenatore 5 minuti prima decide di mettere in campo suo nipote, che è un brocco. I risultati di questa cosa qui sono che, da una parte, quelli bravi non vogliono più giocare in questa squadra, e d'altra parte, quando questa squadra va a giocare con le squadre vere, perde 10-0. Loris De Giovanni, 37 anni, è Senior Director of Technology per l'azienda californiana Riverbed in Silicon Valley. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Non si arresta la fuga all'estero dei nostri ricercatori. Originario del centro-nord, proveniente da una famiglia con elevato livello di istruzione, ha conseguito il dottorato prima dei 32 anni. Questo è il profilo del ricercatore che ha scelto di migrare. Secondo l'Istat, il 7% dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2004 e nel 2006 si sono spostati 2 anni fa in un altro paese. Sono quasi 1300. 50.000 italiani sempre nel 2010 hanno fatto rotta verso l'Australia. Nel 2011 le previsioni indicano un balzo a quota 60.000. Lo riporta il settimanale L'Espresso. Numerosi gli under 30 e i neo laureati. Sono oltre 6.200 per l'ufficio della migrazione svizzero gli italiani che tra gennaio e agosto hanno varcato la frontiera col paese elvetico. Il saldo è di 2.800 italiani in più residenti oltre confine, un nuovo picco. Infine, secondo l'agenzia ANSA, crescono gli italiani e gli spagnoli che fuggono in Argentina per cercare opportunità in Sud America. Tra i motivi che portano i nostri giovani a espatriare c'è la disoccupazione, al 30,1% quella giovanile a novembre per l'Istat, un record, nonché il quinto peggior risultato d'Europa. Le giovani donne del sud senza lavoro sono il 39%, per paradosso nel terzo trimestre sono aumentati gli over 55 rimasti al lavoro, mentre sono calati gli occupati under 24, 2/3 dei nuovi contratti a termine riguardano gli under 34. Ricordiamo che il 23% degli under 30 italiani risulta inattivo e sta perdendo la speranza di trovare lavoro. Secondo Eurostat, nell'eurozona ben uno scoraggiato su due è italiano. E per l'indagine Isfol Plus, il 12,4% dei lavoratori italiani ha un contratto atipico. L'incidenza di occupazioni atipiche è sbilanciata per età a danno dei giovani. Solo il 54% dei 18-29 anni è assunto a tempo indeterminato. Quasi il 25% è atipico. Le donne, i laureati e i residenti nelle regioni meridionali sono i più coinvolti nel lavoro non standard. Si scappa pure dalla selezione all'italiana. Secondo l'ultima indagine Excelsior, con la crisi la percentuale di aziende che assumono sulla base delle conoscenze personali è salita al 61%. Il fenomeno dilaga nel mezzogiorno e nelle piccole imprese. Solo le grandi aziende preferiscono le banche dati, quasi inutilizzati i canali delle agenzie di lavoro e dei centri per l'impiego. In Italia, oltre 2 persone su 3 in cerca di lavoro si affidano a un intermediario, lo afferma Eurostat. La quota è doppia rispetto alla Germania. L'Italia risulta tra i paesi che meno fanno affidamento agli annunci di lavoro. Il quotidiano americano The Washington Post denuncia il nepotismo cronico italiano. Ancora tanti giovani vanno avanti sulla base di connessioni familiari e non grazie al merito. Occorre aumentare i salari perché sono bassi. Il divario nella distribuzione dei redditi è cresciuto negli ultimi 20 anni. Così il ministro del lavoro Elsa Fornero. Per l'OCSE i salari italiani risultano tra i più miseri. Su 34 paesi la penisola si colloca al 22° posto. Se si guarda ai soli paesi G7 l'Italia è ultima. Notizia di servizio per i beneficiari della legge contro esodo per il rientro dei talenti nel CUDA 2012. Attenzione al codice BM che identifica lo sconto IRPEF per chi torna in Italia dopo 2 anni all'estero. Un motivo per restare.

sia iniziato per gioco quando ero piccolissimo a gareggiare con due miei amici per fare il sito web con più visite. Poi questo esperimento continuo è durato 10 anni, 12 anni, fino a concretizzarsi in progetti sempre più complessi. Ho fatto 3 tentativi importanti, i primi 2 sono falliti e mi hanno insegnato però molte cose. Il terzo è stato l'occasione per creare l'impresa successiva, è stato un sito che cresceva, raddoppiava ogni 2 mesi il traffico, e da lì ho fatto una palestra enorme, le ossa in modo incredibile, per creare Ubenda, che sarebbe stato il progetto. E ci arriviamo, però tu sei veramente un po' come dire il prototipo dell'imprenditore di prima generazione, anche un po' all'americana, cade, fallisce, si riprende sempre con progetti migliori, è il tipo di imprenditore che ora serve veramente all'Italia. Nel giugno 2009, appunto, lo accennavi, l'idea che imprime una svolta alla tua carriera, creare Ubenda. Come nasce l'idea? Ogni sviluppatore web ha un problema, che è quello della privacy policy. Io stesso ero afflitto da questo problema, così mi sono detto, perché qualcuno non lo risolve una volta per tutte. Così ho messo insieme un team di coetanei che ha lavorato per 6 mesi, ma purtroppo non ha prodotto niente. Così ho sciolto quel team, ho cercato una web agency con cui lavorare per co-sviluppare il progetto, ma anche lì non c'è stato verso. L'ultima possibilità rimaneva trovare un venture capital, trovare qualcuno che finanziasse l'idea. Ci ho messo 8 mesi per raccogliere un investimento, qualcuno ha creduto in me, questa persona è stata Gianluca Dettori, poi si sono aggiunti altri investitori ed è nata poi l'impresa. Gianluca Dettori, tra l'altro, è stato ospite di Giovani Talenti l'anno scorso. Avere poco più di 20 anni e un'idea innovativa che funziona in Italia è un merito o un handicap? Penso che sia una questione di scommettere sul proprio talento e credere in quello che fai. Alla fine è una storia di passione, non ha senso tanto guardarsi intorno e cercare problemi per magari lamentarsi, già tanti problemi da superare uno dopo l'altro facendo un'impresa, ed è su quello che devi focalizzarti. Quando racconti la tua storia colpisce un passaggio, quello relativo all'importanza dei fallimenti e degli errori accumulati. Esiste una simile cultura in Italia, oppure il nostro tessuto imprenditoriale tradizionale rifiuta il concetto di rischio e fallimento, preferendo la cultura della tradizione all'innovazione? Non penso abbia senso parlare a 20 anni di rischio. La paura del rischio credo che faccia parte di altre età, di altri periodi della vita. Il motivo per cui pochi 20enni fanno impresa è che gli manchi la fantasia di inventarsi un futuro, di farlo con passione e poi di lottare per quel futuro. Loris, Andrea, secondo te rappresenta l'Italia giovane e innovativa con cui gettare ponti dall'estero per imprimere una svolta innovativa e rompere la resistenza al cambiamento, facendo anche network? Guarda, Andrea, molto semplicemente, secondo me, è la prova che l'Italia ce la può fare. Finché uno come lui mantiene il suo entusiasmo, io sono ottimista per il nostro paese. Risposta chiarissima. Un'ultima cosa, Andrea. I piani per il futuro, scommetterai sull'Italia o guardi all'estero anche tu? La nostra impresa è nata in Italia ed è sviluppata in Italia, ma questo è solo un dettaglio. È comunque sempre internazionale. Io penso che guardare all'Italia, rimanere qui come una sorta di aderenza religiosa, è sbagliato tanto quanto vedere la Silicon Valley come la soluzione di tutti i problemi. In bocca al lupo, Andrea. Crepi. Loris, domanda di rito. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Sì, io vorrei magari proporre un'alternativa all'espatrio. Vorrei proporgli di creare il proprio business, magari anche a casa sua, in Italia. Non c'è nessuna ragione per cui un neolaureato o comunque un giovane non provi a mettere su un'attività sua e mettersi in rischio per conto suo, soprattutto di questi tempi. Sono d'accordissimo con quello che diceva Andrea, che il concetto di rischio a quel punto lì è totalmente relativo, soprattutto per aziende nel settore nostro, quello del software, del web, di internet. E tra l'altro, se siete abbastanza ambiziosi nel vostro piano di business, magari potrete poi espatriare voi assieme alla vostra azienda, esattamente come diceva Andrea. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi terza puntata della nostra inchiesta sulle parole che fanno fuggire i nostri giovani talenti all'estero. Il termine odierno è selezione. Ne abbiamo parlato col direttore generale della LUISS, Pierluigi Celli. La classe dirigente si seleziona per cooptazione. Questo sarebbe il minore dei mali se non fosse che in genere chi sta sopra coopta quelli che devono seguirli sulla base di caratteristiche che non sempre sono il valore delle persone. Molto spesso sono semplicemente l'affidabilità, la comunanza di impostazione, il fatto di non creare problemi di conflittualità, il fatto di non essere troppo autonomi, eccetera, eccetera. Poi, in realtà la cooptazione significa quasi sempre un pochino peggiorare la qualità di quelli che poi dopo vengono cooptati. Secondo lei questo è un fenomeno esteso un po' a tutto il sistema Italia, all'insieme della classe dirigente, o ci sono aree più malate e aree più sane? Certamente le aree più malate sono quelle più vicine alla politica, nel senso che la politica in questo momento, proprio per una tradizione che è invalsa soprattutto negli ultimi 20-30 anni, è quella di scegliere per le posizioni di responsabilità, di comando, di carriera, quelli che sono più omogenei a quelli che li selezionano. Meno rilevante il problema all'interno delle aziende, anche perché se qui bisogna distinguere, ci sono aziende familiari che selezionano in maniera lungimirante, quindi non tenendo conto dei vincoli di parentela, amicizia, familistica o quant'altro, e altri invece che si fidano più di quello che hanno in casa. Uno studio ISFOL dice che tra i giovani il 40% in Italia ha ottenuto il proprio impiego grazie alla spintarella. Quanto questo sistema di selezione della classe dirigente porta decine di migliaia di giovani ad andarsene dall'Italia? L'esperienza che noi abbiamo è che molto spesso i migliori non sono quelli che vengono selezionati, perché nella misura in cui la selezione si fa per conoscenze, relazioni personali, relazioni familiari o quant'altro, uno è portato a prendersi le persone che in qualche modo non gli creeranno problemi. I migliori, soprattutto quelli che hanno le teste più libere, sono anche quelli più impegnativi. E quindi se un capo non è bravo a tenere testa a quelli più impegnativi, è chiaro che quelli più impegnativi che hanno idee, voglia di fare e vogliono essere misurati sui fatti, sulle realizzazioni, eccetera, eccetera, preferiscono andarsene e andarsene all'estero dove il merito è ancora un valore predominante e il nome non conta. Da come lo descrive sembra un cancro ben radicato, quasi un cancro culturale il nostro. Io credo che questo sia purtroppo un fatto che ormai è entrato corrodendo un pochino le teste delle persone. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Da questo mese nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro paese un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee, dunque. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.